Questo pomeriggio alle 18.30 alla libreria Coppa Ambasciatori in Via Orefici 19, Carlo Galli presenterà il suo libro Sovranità, edito dal Mulino, in compagnia di Angelo Panebianco e Gianfranco Pasquino. Noi siamo al telefono col professor Galli, che saluto, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, lei col suo libro interviene su uno dei temi più, diciamo, caldi dell'attualità politica, non solo italiana, quella della sovranità. Il tema della sovranità, il concetto, lo fa anche in un modo critico, dicendo che è un concetto che viene disprezzato o deriso e non dovrebbe essere così. La nozione di sovranità è assolutamente centrale per lo svolgimento della storia politica moderna e contemporanea. Senza conoscerla, senza capirla, non si comprende nulla della politica occidentale. Quindi è necessario che, quando si parla di sovranità, si abbia un minimo di percezione di questa importanza. Premetto, uno dei principali nemici della sovranità è il sovranismo, se non altro perché l'ha dequalificata e delegittimata. Sovranità è un concetto che ha così poco a che fare con ideologie violente, ignoranti, xenofobe, razziste, che è il concetto di sovranità è menzionato nel primo articolo della nostra Costituzione, il che, mi immagino, potrà convincere molti del fatto che non è un concetto fascista. Quindi, insomma, non ha niente a che fare col nazionalismo, invece, che con cui oggi c'è un po' di confusione anche sui mass media, cui appunto forze politiche che hanno chiari riferimenti nazionalisti vengono definite sovraniste. Esattamente. La sovranità non è un concetto facile da maneggiare, contiene problemi, contiene contraddizioni, come tutto ciò che ha a che fare con la politica, perché la politica ha a che fare con gli uomini, con i rapporti di potere fra gli uomini, con le contraddizioni attraverso le quali gli uomini vivono. Con ciò non si vuol dire che la sovranità sia il male assoluto. Contiene problemi, ma certamente non sono problemi ascrivibili al fatto che essa sia di destra. Non lo è per nulla. Dentro la sovranità possono essere riversati contenuti di destra, di centro, di sinistra. La sovranità può essere interpretata storicamente, di volta in volta, da forze sociali progressive, da forze sociali reazionarie. Il tema non è in questo momento salvare una certa interpretazione della sovranità, il tema è tornare a pensare la politica secondo concetti politici e non secondo concetti emozionali. Applicando il concetto di sovranità all'economia, spesso, come dire, negli ultimi anni questo concetto appunto è stato brandito per sostenere che l'Europa sottrae sovranità agli stati. È così? È così, è assolutamente così. Gli stati sono ben consapevoli di questo. L'Europa nasce da trattati fra gli stati, quindi nasce da decisioni sovrane degli stati di perdere, mettere in comune alcuni aspetti, alcuni ambiti di sovranità, il più importante, il più rilevante dei quali è la sovranità monetaria. Oggi si viene definito sovranista non chi in generale pensa che la sovranità sia un concetto importante, viene definito sovranista chi nello specifico sostiene che sia meglio disobbedire agli ordini dell'Europa, venir meno a ciò che abbiamo promesso attraverso i trattati, e che sia opportuno che gli stati, o quantomeno alcuni, si riprendano la propria sovranità anche dal punto di vista monetario. Questa è una tesi politica che può essere giusta, può essere sbagliata, va argomentata, va combattuta, va assecondata con argomenti razionali. In ogni caso, quello che è in gioco non è il concetto di sovranità, quello che è in gioco è che cosa un certo Stato possa fare oggi, possa, debba, voglia fare oggi in relazione a una questione specifica, cioè stare o non stare all'interno di determinati pattuizioni di ordine economico che in passato si sono realizzate e che oggi qualcuno reputa troppo onerose. Addirittura vi è che dice che gli stati dovrebbero rinunciare integralmente o quasi integralmente alla propria sovranità e mettere al mondo, generare una sovranità europea, che che sia giusta che sia sbagliata questa tesi, che questo progetto sia possibile o quasi certamente impossibile, il punto è, vorrei far notare, che si tratta in ogni caso sempre di sovranità che passerebbe da uno Stato X a una entità superiore, l'Europa, che in ogni caso sarebbe sovrana. Senza sovranità è molto difficile ragionare di politica. Allora a questo punto le faccio una domanda forse anche un po' stupida, che però viene dalla piega che ha preso il dibattito pubblico non solo nazionale. Quindi sostanzialmente il concetto di sovranità non è in antitesi necessariamente al concetto di internazionalismo. Il concetto di sovranità non è in antitesi, nel senso che possiamo ben immaginare un'entità politica sovrana all'interno della quale permangano diverse nazionalità. Certamente sarebbero nazionalità non sovrane. Facciamo un esempio classico: l'impero asburgico, l'impero austro-ungarico, era da un certo punto di vista un'entità politica sovrana, al cui interno però stavano parecchie diverse nazionalità, più o meno felicemente, che esistevano, ma certo non in modo sovrano. Noi oggi dobbiamo distinguere fra la sovranità e la nazionalità. In ogni caso, coloro i quali pensano alla sovranità europea pensano ad una sovranità di un'entità che sarebbe sovranazionale, perché non è che si può formare un'unica nazione in Europa, tante ce ne sono e tante tendenzialmente ne restano. Quello che sarebbe diverso è che ora tendenzialmente le singole nazioni sono organizzate ciascuna attorno ad uno Stato sovrano. In questa ipotesi futura gli Stati sovrani scomparirebbero, perderebbero molte delle loro caratteristiche sovrane, diciamo così, e la sovranità si trasferirebbe a un livello superiore, ma resterebbe la sovranità. Il concetto, la sovranità è un concetto esistenziale, cioè ha a che fare con il fatto che un certo soggetto politico esista, che questo soggetto politico sia piccolo, medio o grande, è importante, ma sotto il profilo teorico non è decisivo. Chi esiste politicamente è sovrano, chi non è sovrano non esiste politicamente. Le faccio un'ultima domanda, poi rimando ascoltatrici e ascoltatori ovviamente alla lettura del suo libro e alla presentazione. Lei prima citava la Costituzione e il primo articolo dice che la sovranità appartiene al popolo, ovviamente attraverso le forme in cui è organizzato lo Stato. Parlando di Europa in una dimensione appunto sovrana, si pone il problema di chi prende le decisioni? Sì, in questa ipotesi, che io personalmente reputo remotissima, ai limiti della impossibilità, questo sotto il profilo pratico. Sotto il profilo teorico bisogna pensare a qualche cosa come gli Stati Uniti d'America. Oggi la Unione Europea è l'esatto contrario degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono una federazione sovrana di stati non sovrani. Oggi l'Europa è un insieme non sovrano di stati sovrani. Se noi vogliamo fare gli Stati Uniti d'Europa, dobbiamo far sì che questa unione non sovrana, la UE, si trasformi in una federazione sovrana. E al tempo stesso gli stati oggi sovrani, a parte la sovranità monetaria, gli stati sovrani divengano stati non sovrani. È un vasto programma, ma in linea teorica il processo, la linea di sviluppo è questa. A quel punto avremo una situazione analoga a quella degli Stati Uniti. Ciascuno stato non sovrano ha tuttavia una camera rappresentativa, un proprio ordinamento giudiziario, certamente, un proprio ordinamento giuridico, certamente, ma insomma le grandi decisioni strategiche vengono prese a livello federale, a Washington, dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato e dal Presidente degli Stati Uniti, che sono istituzioni elette da tutti i cittadini, alcune istituzioni elette dai cittadini come cittadini, altre istituzioni come il Senato elette attraverso la mediazione statale, altre come il Presidente elette attraverso la mediazione dei grandi elettori. Ma il modo, la tecnica c'è. Quello che non in Europa non abbiamo è quello che hanno negli Stati Uniti, cioè negli Stati Uniti esistono perché hanno una Costituzione che dice "We the people", noi il popolo. In Europa noi non abbiamo una Costituzione Costituzione che dica we the people. In Europa ci sono molti diversi popoli europei, ciascuno dei quali ha la propria singolare esistenza politica. Non è ancora stato effettuato, se mai ciò sarà possibile, non è ancora stato effettuato quel grande atto di unificazione politica originaria che è l'atto costituente, di porre una Costituzione. Una volta che questo sia avvenuto, le tecniche di rappresentanza si trovano, le tecniche di trasmissione della sovranità dal popolo alle istituzioni si trovano. Quello che manca è quell'atto costituente originario. Quindi l'Europa oggi, la UE, non è sovrana, sono sovrani i singoli stati, hanno messo insieme la sovranità monetaria, è stato un passo difficile, doloroso. Oggi qualcuno vuole tornare indietro e questo qualcuno viene chiamato sovranista. Professor Galli, io la ringrazio e ricordo l'appuntamento per questo pomeriggio alle 18.30 alla libreria Coop Ambasciatori in via Orefici 19 per la presentazione del libro Sovranità, edito da Il Mulino e in compagnia di Angelo Panebianco e Gianfranco Pasquino. Grazie, arrivederci. Grazie a lei, buongiorno.